verso il voto. All'Italia e confronto in TV sono questi i temi principali al centro della giornata politica. Silvio Berlusconi attacca Walter Veltroni che ha rifiutato di partecipare a Porta, un rifiuto che a causa della par condicio impedisce anche a Berlusconi di essere ospite della trasmissione di Bruno Vespa. Duro il giudizio del leader del Popolo della Libertà, sentiamolo. C'entra un atto violento da parte di Veltroni che ha detto non voglio andare a rispondere ai giornalisti ed è stanco e lo capisco. Ma il fatto che lui non voglia andare non significa che il leader dell'opposizione non possa andare lui. Quindi questa cosa è una violenza inaccettabile e gli italiani devono sapere che ancora la RAI è in mano alla sinistra che la domina come e quando vuole. Berlusconi è intervenuto anche sulla vicenda Alitalia, ha spiegato che sono interpretazioni della stampa i nomi degli imprenditori della cordata italiana. Sentiamolo. I nomi che sono apparsi, ho letto poco fa, alcuni giornali non sono nomi che sono stati indicati, sono indiscrezioni o supposizioni da parte giornalistica. Punto primo. Punto secondo, ancora appare evidente la incapacità di questo governo di affrontare situazioni importanti e delicate. Il fatto di avere aperto una trattativa con un solo soggetto, Air France, in costanza della permanenza in borsa di Alitalia è qualcosa veramente di imperdonabile. Di Alitalia e del confronto in TV ha parlato anche Walter Veltroni che con il suo pullman ha concluso il tour elettorale in Sicilia. Sentiamo il servizio di Elisabetta Fiorito. Stavolta è Walter Veltroni ad attaccare Silvio Berlusconi su Alitalia. Il segretario del PD critica il Cavaliere che, a suo dire, turba la trattativa. Sono stati annunciati da un uomo politico, il quale ha detto i nomi sono A, B, C e D. Stiamo parlando di una cosa di grande delicatezza. La risposta è che nel giro di poche ore sono già arrivate, erano quattro nomi, due hanno già smentito. Veltroni si dice poi disposto ad un confronto TV quando e come vuole Berlusconi, ma non risparmia critiche al leader del Popolo della Libertà. Sono contrario, dice Veltroni, ad una politica che continua a ripetere gli slogan di 15 anni fa. Il problema per l'Italia, spiega il segretario del PD, è la crescita e le riforme istituzionali. Noi abbiamo bisogno di una fase costituente, la cui composizione verificheremo a questo punto dopo le elezioni. Va bene la concertazione, ma deve restringersi e qualificarsi. Adesso è venuto il momento di cambiare il segno. Dobbiamo fare una concertazione per la crescita, perché il problema italiano è il problema della crescita del prodotto interno lordo. Sono preoccupato, dice Veltroni, che il paese si ritrovi senza la chiave per accendere la macchina. Siamo in un momento particolare dell'economia e bisogna tenere alta la guardia. Sul risultato elettorale Veltroni spiega che da 15 anni il paese è fermo e senza stabilità rischia di andare gambe per aria. A 15 giorni dal voto, secondo il segretario del PD, i sondaggi dicono che se va bene ci sarà hanno 2, 3 o 4 senatori in più. Il centro sarà determinante negli equilibri del Senato e garantirà gli elettori da possibili inciuci tra Partito Democratico e Popolo della Libertà. A dirlo è Pier Ferdinando Casini, il candidato premier dell'Unione di Centro, è anche tornato a ribadire che non esiste voto utile se non quello dato seguendo la propria coscienza. Sentiamolo. Le alleanze si fanno prima del voto, non dopo. Gli italiani possono stare sereni perché i voti dati a noi non serviranno a inciuci, non serviranno a difendere interessi particolari, ma a difendere i valori e gli interessi di tutti gli italiani. Il candidato premier della sinistra arcobaleno, Fausto Bertinotti, commenta intanto così le affermazioni di Berlusconi sulla RAI controllata dai comunisti. Francamente credo di essere che sia l'unico in Europa che non veda le differenze che ci sono tra la sinistra arcobaleno e il Partito Democratico. E del resto, se uno vede una televisione comunista, capisco bene che possa anche non vedere queste differenze. Dopo la nave, il treno e il pullman, un nuovo mezzo di locomozione fa infine il suo esordio nella campagna elettorale italiana, il track del Partito Socialista, un grande tir lungo oltre 10 metri che seguirà in giro per il paese Enrico Boselli, il leader socialista che presentando questa novità è tornato ad attaccare PD e PDL. Sentiamolo. Neanche nella Russia di Putin accade quello che sta accadendo in Italia. Basta accendere un telegiornale, non c'è un confronto, non c'è un contraddittorio, sono soltanto monologhi dei principali leader politici. In questo modo non si spiega agli italiani e non si aiutano gli italiani a decidere. Questa pagina politica si chiude qui. Un saluto da Andrea Viali.